Buongiorno, buongiorno, sono le 7:10 minuti. Buongiorno anche Amigone, questo è il mattino di Popolare Network. Questa mattina siamo svegliati con l'allarme del capo dell'FMI, Lagarde, che dice: attenzione, 3 mesi per salvare l'euro, non un giorno di più. Questa, come sapete, è la settimana decisiva con le elezioni in Grecia, poi settimana prossima il vertice. Ma l'Italia di Mario Monti è nel mirino della speculazione. Nel mirino della speculazione con tutti i problemi che ci sono, tra cui quello ovviamente anche del sisma, degli effetti del sisma, dei continui effetti del sisma nelle zone colpite dal terremoto in Emilia Romagna. Di questo parleremo nel Fatto del Giorno oggi. Ma questa prima parte di trasmissione vogliamo dedicarla a un altro avvenimento. Piena fiducia nei giudici della Suprema Corte, anche se so che il verdetto sulle violenze di quella notte alla scuola Diaz sarà comunque controverso, ma se dovesse andare male, finisse con le assoluzioni dei poliziotti, sarebbe preoccupante per il futuro democratico dell'Italia. Così Mark Howell, il giornalista britannico che fu ridotto quasi in fin di vita dal pestaggio dei poliziotti alla Diaz. Mark era presente ieri nell'aula della Cassazione dove si svolge l'ultimo atto del processo ai 25 poliziotti coinvolti nel dibattimento di secondo grado. Ecco, Mark dice di avere piena fiducia nei giudici della Suprema Corte, ma dice anche, come citavamo, che se dovesse andare male e finisse con le assoluzioni sarebbe preoccupante per il futuro democratico dell'Italia. Immagino che sia questo anche il pensiero di Lorenzo Guadagnacci, che è giornalista, che era presente alla Diaz quella sera. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a voi. Ecco, allora, prima di tutto ti volevo chiedere, immagino che tu andrai venerdì oppure no alla sentenza della Cassazione? Ma veramente no, sarò a lavorare, quindi diciamo delego la presenza ad altri e ai nostri avvocati. Seguirò da lontano, ma come dire, vicino con lo spirito. Ecco, tu sei stato, eri quella notte alla Diaz, la tua storia è stata raccontata. Immagino che tu ti approcci, diciamo, a questa sentenza con uno stato d'animo particolare. Sì, certamente l'ultimo atto di un lunghissimo, troppo lungo percorso giudiziario, che è rimasto forse l'unico scenario nel quale si prova da parte delle istituzioni a dare un giudizio, a dare una risposta rispetto a quello che avvenne a Genova nel 2001. Ho sentito che Mark Howell ha parlato di fiducia e di attesa anche di un giudizio positivo possibile rispetto a questa sentenza. Io penso questo, che la fiducia non sia una cosa astratta e che di fronte a questi giudizi ci si dovrebbe aspettare la possibilità per i giudici di valutare in modo sereno, in totale autonomia rispetto al caso che viene proposto. Ho la sensazione che non sia questo il caso di questo giudizio, non ci sia questa serenità di fondo. Perché non si tratta nemmeno più di giudicare se 25 persone, in giudizio di colpevolezza è stato corretto o no sotto il profilo formale, ma qui si tratta di decidere se decapitare o no il vertice di polizia. E questo è. E secondo te questo non può essere corretto? Questo secondo te può essere un elemento di non serenità per quanto riguarda i giudici? Ma io direi di sì. Nei giorni scorsi uno degli imputati, il dottor Francesco Gratteri, ha condotto in pompa magna la conferenza stampa di presentazione di questa operazione brillante di polizia, l'arresto dell'imprenditore, del commerciante che ha messo la bomba a Brindisi. Ecco, questa stessa persona, ed è un esempio che mi viene in mente, se la Cassazione dovesse decidere per confermare, semplicemente confermare la sentenza di secondo grado, ecco, sabato prossimo non potrebbe presentarsi in ufficio perché ha una pena accessoria avuta in secondo grado di 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Questo a me sembra una cosa fortemente anomala, che si mette la Corte di Cassazione nelle condizioni di decidere, appunto, non su un giudizio su una persona e su un caso, ma addirittura di incidere pesantemente sull'attuale assetto di vertice della Polizia di Stato. E questo avviene perché, anziché sospendere gli imputati condannati in secondo grado, si è deciso di mantenerli nel loro ruolo. A me sembra una forma di pressione abbastanza acuta sui giudici della Corte di Cassazione. Ecco, abbiamo detto gli imputati. Ti interrompo un attimo perché andrei a sentire insieme a te gli ascoltatori questo servizio che il nostro Massimo Alberti ha preparato su chi sono gli imputati di questo processo. Poi torniamo a parlare con te, a commentare con te questo ultimo atto in Cassazione. Una ragazza alta circa 1,80 giaceva in una pozza di sangue, sangue veramente copioso, per me stava morendo. Alla Diaz fu macelleria messicana. Entro venerdì la Cassazione dovrà decidere sulle condanne arrivate in secondo grado per il blitz alla scuola Diaz. 60 feriti, 93 gli arrestati, poi prosciolti, molti dei quali passarono attraverso le torture di Bolzaneto. Sotto processo sono finiti i violenti pestaggi, le coperture, la fabbricazione di false prove, come le famigerate Molotov trovate in strada e portate nella scuola. C'erano 4-5 poliziotti, 2 in borghese, con la divisa del reparto mobile che stavano richiedendo sui feriti. 346 poliziotti, 149 carabinieri hanno partecipato al blitz. I condannati in appello sono stati 25, il 5%. Dichiara Grattieri Francesco il Lupe di Giovanni, colpevole del reato loro ascritto a capo A, e condanna ciascuno alla pena di anni 4 di reclusione. La sentenza del 18 maggio 2010 della terza sezione della Corte d'Appello di Genova ha ribaltato il primo grado, che aveva assolto i vertici della catena di comando e inasprito alcune pene. In tutto oltre 98 anni per i falsi ideologici e alcuni episodi di lesioni gravi, mentre la prescrizione è scattata per le lesioni lievi, calunnie e arresti illegali. Erano delle belve, io ho visto tutta la matanza in diretta, avevano rotto un braccio, una gamba. I responsabili saranno puniti dopo una sentenza definitiva, diceva l'allora capo della polizia De Gennaro. Come lui, anche molti dei condannati in secondo grado sono stati promossi. Non è bello che una persona condannata sia ai vertici della polizia italiana. Le valutazioni di opportunità sono una Il più alto in grado tra i condannati è Francesco Gratteri, all'epoca direttore dello SCO. È diventato prima questore di Bari ed ora è responsabile della direzione anticrimine centrale. La Corte d'Appello di Genova l'ha condannato a 4 anni per falso. Gilberto Caldarozzi era il vice di Gratteri, poi ne ha preso il posto da direttore allo SCO, quindi è stato promosso questore per merito straordinario nel 2006, quando partecipò alla cattura di Bernardo Provenzano, 3 anni e 8 mesi per falso. Sono entrato alla scuola Diaz, circa un'ora prima dell'arrivo del settimo nucleo del reparto mobile. Sono stato aggredito 3 volte. Vincenzo Canterini nel 2001 guidava i reparti della Celera, in particolare il famigerato settimo reparto mobile di Roma. È diventato ufficiale di collegamento con l'Interpol a Bucarest, 5 anni per falso in continuazione con lesioni gravi. Giovanni Luperi, all'epoca vice capo dell'UCIGOS, da cui dipendeva il controllo delle squadre Digos presenti al G8, è oggi capo del Dipartimento Analisi dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, l'ex SISDE, 4 anni per falso. C'erano tutti, comunque c'era il funzionario della Digos, il funzionario della Mobile, insomma ero... Spartaco Mortola era il capo della Digos di Genova, è stato promosso a questore vicario di Torino e poi è diventato questore, 3 anni e 8 mesi per falso. Il dirigente della polizia, accusato di avere materialmente introdotto le Molotov nella scuola, si chiama Pietro Troiani, è stato condannato a 3 anni e 9 mesi. Io ho subito un'aggressione lì all'interno, mi sono difeso chiaramente perché da una pugnalata ci si difende. Questa è la voce di Massimo Nucera, uno dei poliziotti all'interno della Diaz, quello che raccontò di aver ricevuto una pugnalata, che però si inflisse lui stesso, 3 anni e 8 mesi. Ancora oggi ripete che quella coltellata qualcuno gliel'ha data davvero. Il nostro compito era quello, entrare, conquistare e riuscire subito. Poi se all'interno qualcuno si è fatto male, non è stato sinceramente fatto da parte nostra. Ecco, questa dunque è la posizione dei vari poliziotti coinvolti in questo secondo, in questo ultimo atto del processo per le violenze nella scuola Diaz. Lorenzo Guadagnucci, la catena di comando, poi in realtà qua non viene colpita con questi dibattimenti, con questi processi? Beh sì, la catena di comando viene colpita, perlomeno in secondo grado, nei personaggi che sono stati indicati in questo servizio. In pratica si tratta tutta di esponenti di vertici di polizia che erano presenti fisicamente alla scuola Diaz. Quello che manca semmai ovviamente è chi stava sopra, che però in quel momento non era Genova. Si è discusso, come si sa, del ruolo avuto dall'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, che era a Roma e che ha avuto un processo per induzione alla falsa testimonianza, un processo collaterale rispetto a quello principale, che si è risolto recentemente con un'assoluzione in Cassazione dopo una condanna in secondo grado. Ecco, ovviamente poi c'è la parte delle responsabilità politiche che però certo, sappiamo non essere competenza della magistratura, però direi che questo processo in secondo grado ha colpito la catena di comando che operativamente era a Genova a gestire quell'operazione. Ecco, alla luce di queste cose che tu dici, e ti chiedo proprio una battuta perché siamo in chiusura, possiamo dire che allora la sentenza a Cassazione non dirà la parola definitiva fine rispetto a questa vicenda? Ma questo non lo sappiamo, perché potrebbe anche rinviare a un processo nuovo in appello, quindi probabilmente però scatterebbe la prescrizione. Quindi questo non lo possiamo dire. Io dico però che quello che mancherà sicuramente sarà un giudizio sul piano storico e politico di queste vicende. Questo perché le istituzioni oggi guardano a questo processo in Cassazione con una chiarissima indicazione per i giudici, cioè quella di salvare almeno i dirigenti di più alto grado. Sotto questo profilo purtroppo la risposta da parte delle istituzioni ce l'abbiamo già, ed è quella di una conferma della fiducia e di una legittimazione addirittura di quello scempio che fu compiuto a Genova nel 2001. Questo credo che sia il bilancio molto amaro che il nostro sistema democratico deve ormai già fare. E immagino che per chi come te era lì quella sera sia ancora più amaro. È amaro perché da cittadino devo dire che a 11 anni di distanza almeno una presa di responsabilità, le scuse delle istituzioni e una indicazione che quello che avvenne quella notte è una cosa che non è accettabile per un paese democratico, una polizia che si muove all'interno di un regime democratico, almeno questo devo dire nel 2001 me lo aspettavo, incredibilmente non c'è stato, ne devo prendere atto. Viviamo in una democrazia che si fa sempre più fatica a definire con questo termine. Grazie mille allora Lorenzo Guadagnucci, grazie e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.